quell'andare veloce verso il vento per chiederti l'amore con un sorriso stanco e poi cercare il sole, tanto sole, cosa voglio? Venirti a dire, vengo e ti appartengo, venirti a dire, corro, corro, ma non corro, dirti che ti sogno, e invece non ti sogno, cosa voglio? Un buco nel muro dell'inverno per rivedere l'estate e ritrovare i fiori e vivere ed amarti finché non muore il giorno, cosa voglio? Fra tanta gente ci sei tu che mi vuoi, ci sei tu che mi ascolti, chissà se poi è vero, chissà se poi è vero, cosa voglio? Nel primo verde della primavera che tutto ciò che nasce non cambierà colore, non morirà col freddo, cosa voglio? E poi tornare di nuovo verso il giorno per ringraziare te questo bene grande.